Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La torre aveva una splendida, imprevista veduta sul mare, con una vista che nelle giornate limpide spazia su tutte le isole dell'arcipelago toscano e poi la Corsica e la Sardegna. Si sentiva l'odore del salmastro, mischiato a quello del rosmarino e della salvia selvatica. Ho sentito subito che era il posto ideale per realizzare il mio progetto e l'ho acquistato immediatamente, insieme a 11 ettari di bosco e di macchia mediterranea. Mi chiamo Stefano Grossi, ho 57 anni, ho una figlia di 32 che vive all'estero. Il mio lavoro è di agente immobiliare, è diventato un lavoro terribile oggi. Fare impresa e compiere un'impresa. Oggi non sembrano così lontane questi due modi di definire il raggiungimento di un obiettivo. Letteralmente fare impresa significa intraprendere un'attività professionale che generi lavoro, profitto e opportunità di crescita. Compiere un'impresa invece ha a che fare con qualcosa che è considerato grande, complicato o poco alla portata dell'uomo. E di solito lo si usa per definire imprese sportive o al limite della resistenza umana, cose tipo scalare montagne senza l'ossigeno o abbassare il record di velocità del giro del mondo in barca a vela. In questo periodo storico, e questa radio, Radio 24, ne è la principale testimone, fare impresa sembra quasi compiere un'impresa. Questo paese poi non sembra proprio il luogo adatto in cui aprire società, avviare attività o in cui investire del tempo, del denaro o degli sforzi per far crescere qualcosa che ci permetta di vivere e di lavorare. Nonostante tutto però, anche qui, fortunatamente, le persone non smettono di avere dei sogni e di volerli realizzare. Ecco che quindi quotidianamente in giro per questo paese le persone fondano società, depositano brevetti, comprano immobili per trasformarli o per migliorarli. Ecco, se voi che state ascoltando in questo momento avete aperto un ristorante che era il vostro sogno aprire, se avete fatto una startup che crea applicazioni per smartphone o qualsiasi cosa faccia, se avete investito tutti i vostri risparmi in un agriturismo o in un bed and breakfast lontano dalla città, su una collina in mezzo a un bosco, ma anche se avete creato una società che semplicemente aiuta chi ha più bisogno, ecco, oggi questa è la puntata per voi. 80024 0024. E questa è la puntata per voi, per tutti quelli che avevano un grande sogno che aveva a che fare con il creare qualcosa, con investire del tempo, del denaro, della voglia e soprattutto investire quell'impegno che serve per realizzare un sogno. Perché un conto è stare seduto su un divano e dire: ah beh, il mio grande sogno è aprire una trattoria che fa solo pesce fresco in riva al mare, oppure il mio sogno è aprire un chiosco di gelato a Miami Beach, o anche il mio sogno è creare un'impresa che aiuti, che so, a desalinizzare l'acqua o le persone che hanno più bisogno di me. È un conto poi invece è salire su quella barca, cominciare a navigare e arrivare fino in fondo. Ecco, questa puntata è dedicata a voi e mi piacerebbe che mi raccontaste dal vivo, al telefono, che tipo di attività avete aperto, quanto avete investito, quanto ci state spendendo, non solo in termini economici ma anche in energie proprio. 80024 0024, viva voce, altrimenti via sms al 349 238 6666. Prendetemi un po' oggi come un Oscar Giannino qualunque o un Barisoni, non qualunque, un Barisoni che sta di là e tra poco arriverà di qua, però non da un punto di vista puramente economico, dei numeri. Facciamo che mi raccontate che cosa comporta emotivamente fare un'impresa, aprire un'attività, una cosa che uno ha in mente di fare, ci butta il cuore e non solo quello. Ve lo chiedo perché la puntata di oggi è una puntata a cui tengo particolarmente per diversi motivi. Primo, perché il posto di cui sto per parlarvi è un posto magnifico che non conoscevo e che ho già anche linkato sul profilo Facebook del programma, che voi siete qui alla D24. E soprattutto perché la storia di Stefano è una storia che riguarda quello, che riguarda fronteggiare i propri sogni, mettersi le mani sul cuore, mettersele in tasca e poi rimboccarsele le maniche per provare a realizzarli. 800240024 oppure 349-238-6666. I sogni che avete realizzato, i soldi che avete investito, le energie che ci avete speso, che è quello che mi dice Maddalena. Il mio sogno era lasciare la pianura, andare a vivere in collina, svegliarsi con il sole, addormentarsi con la luna in fronte, ricominciare a sognare, aprire bed and breakfast e da lì in poi riscoprire energie e vitalità inaspettate. 800240024, ma anche qui mi ha scritto semplicemente: io ho realizzato il mio sogno, il sogno della mia vita, ne parliamo? Io ne parlo più che volentieri. Però o me lo scrivi o mi chiami. 800240024, anche se devo dire che il nome su Facebook la dice lunga sul progetto, perché Bed and Breakfast al Sognalibro, qualunque esso sia. Oggi non ci tiriamo indietro da fare nomi, società, luoghi, chi se ne frega. Se sono sogni che avete realizzato, li chiamiamo con il loro nome. 800240024 oppure via sms al 349-238-6666. Questo luogo si chiama Poggio al Pruno e lui si chiama Stefano. Ho 56 anni, sono toscano e ho sempre inseguito un sogno. Quello di acquistare un casale e svolgerci un'attività turistico-ricettiva nella mia terra. Tutto si è avverato nel 1997, quando la mia vita era libera e serena e il mio lavoro di agente immobiliare mi portava in giro per la campagna toscana. In quell'epoca ho casualmente scovato, tra Cecina e Volterra, il rudere di una torre d'avvistamento militare in cima a una collina a 600 metri sul livello del mare. Si chiamava Poggio al Pruno. Aveva una splendida e imprevista veduta sul mare, con la vista che nelle giornate limpide spazia su tutte le isole dell'arcipelago toscano, fino alla Corsica e la Sardegna. Il luogo era completamente selvaggio, privo di qualsiasi urbanizzazione. Si sentiva nell'aria l'odore del salmastro, proveniente dal mare, mischiato a quello del rosmarino e della salvia selvatica della macchia mediterranea. Ho sentito subito che era il posto ideale per realizzare quel mio progetto, quel mio sogno, e l'ho acquistato immediatamente, insieme a 11 ettari di bosco e di macchia mediterranea. Quello che mi ha colpito la prima volta che sono andato lì è la bellezza della vista mare. È qualcosa veramente che ti dà un senso di rilassamento totale, vedere questa vista splendida su questo paesaggio ancora, si può dire, primitivo, selvaggio. L'odore del mare, l'odore della natura che c'è l'intorno, e poi lì proprio la sensazione di essere in Toscana. È stato tutto molto faticoso da lì in poi, ma non mi sono mai perso d'animo. Ho lottato 10 anni con la burocrazia per avere la possibilità di ristrutturare e ampliare l'immobile. Il primo permesso mi è stato concesso dopo 6 anni, nel 2003. Nel frattempo però il turismo era cambiato e il progetto non era più sostenibile economicamente, per cui ho presentato una variante solo per modifiche interne. Nonostante si trattasse di un cambiamento minuscolo, sono trascorsi altri 4 anni per ottenere il nuovo permesso. Finalmente nel 2007 ho iniziato i lavori e li ho finiti nel 2008, mettendoci tutti i miei risparmi. La villa è diventata splendida. L'ho dotata di arredi d'antiquariato e di tutti i comfort moderni, con un bel giardino di essenze mediterranee e una piscina. Ma questi 10 anni d'attesa hanno determinato una lievitazione dei costi e un conseguente sovraindebitamento con le banche. Io mi sono sempre fidato del mio istinto, quindi non era proprio un sogno, nel senso che ho sempre avuto ragione. Quindi l'idea era di venderlo a uno straniero. Diciamo, ci sono andato vicinissimo 2 o 3 volte. Nel frattempo è arrivata la crisi e la mia attività di agente immobiliare ne ha risentito. In famiglia è stato difficile gestire le difficoltà e ho dovuto chiedere prestiti a parenti e amici. Non un bel periodo. L'attività non ha potuto rendere per come avevo progettato. Il sogno che avevo nella mente e nel cuore non aveva preso la forma che avevo immaginato. Io non sentivo di averne colpa e sarei stato sicuramente peggio se non ci avessi mai provato. Ora però mi tocca mettere tutto in vendita, a malincuore. Io continuo a fare 2 lavori, rimboccandomi le maniche ogni mattina e aspetto l'offerta giusta. Ma ogni giorno, mentre sono con i miei clienti, mi dispiaccio perché non potrò fare la vita che avevo desiderato. Oggi in Toscana era una bellissima giornata di sole e io ero appoggio al pruno e guardavo la villa e poi il mare. E ripensavo a quanto amore e sacrifici ci ho messo e quanto coraggio e fierezza ci vogliono per rimanere qui, senza farmi abbattere, in piedi. I sogni sono pericolosi. Se li realizzi poi sei costretto a sentirti felice e gratificato. Se invece qualcosa va storto, ti senti come se avessi fallito un obiettivo grandioso. Se invece di sogni non ne hai, rischi di sentirti uno senza fantasia, senza estro, senza carattere, una persona banale. Non succede a tutti così. Secondo me però i sogni a volte rischiano di essere una trappola, un po' come le illusioni. C'è chi dice che senza sogni saremmo ancora all'età della pietra, che se l'uomo non avesse desiderato volare, non avrebbe scoperto il modo per farlo. Cose di questo genere, io penso che siano vere. Però nella vita di ognuno c'è un momento in cui si viene messi di fronte all'idea del sogno. Il sogno come qualcosa di grandioso da desiderare. Come un obiettivo che ti riempie la vita. Come l'unica ragione per compiere imprese memorabili e vivere felice. Come se non bastasse fare bene il proprio lavoro, scoprire cose nuove, avere amici, innamorarsi, avere dei figli, coltivare degli affetti. Come se la vita, per avere un senso, avesse bisogno di qualcosa di eccezionale. Come se non fosse già grandioso guardare il mare mangiando un cocomero ghiacciato. Non lo dico perché sia contrario ai sogni, al contrario. Al contrario, sono talmente appassionato di chi si mette in caccia di qualcosa di grandioso che io vorrei evitare di banalizzare. Non siamo tutti uguali e a qualcuno è più che sufficiente condurre una vita normale per essere felice. A qualcuno. Ci sono persone che hanno delle necessità maggiori, però. Chi vuole diventare un bravo sportivo, chi vuole costruire un'impresa, chi vuole suonare uno strumento, scoprire qualche segreto del cosmo. Anch'io avevo dei sogni da bambino e siccome sono molto fortunato, la maggior parte si è avverata. Però ho un difetto che non mi aiuta. Quando riesco a raggiungere un obiettivo, quando riesco a fare qualcosa che mi ero prefissato, o quando realizzo un mio profondo desiderio, quello mi sembra perdere di importanza. Diventa qualcosa di scontato e non mi dà tutta la gioia che speravo. Certo, così posso concentrarmi sul prossimo, però è anche vero che non mi godo mai le cose belle che mi capitano. Da una parte mi spiace, ma dall'altra credo che sia un meccanismo comune a molti. E allora mi viene da pensare che forse la cosa bella di essere un sognatore è vivere con forza tutti quei momenti in cui il sogno lo stai costruendo, lo stai accarezzando, lo stai immaginando. Come quando senti dire che di un viaggio il bello non è tanto raggiungere la meta, ma percorrere il cammino, più o meno. Molti hanno dei sogni, alcuni ci provano, molti vengono frustrati. Io ho grandissima ammirazione per chi come Stefano non molla mai e si tiene cara la propria capacità di pensare in grande, di migliorarsi e immaginare qualcosa che ancora non esiste, di lottare per farcela e non rimpiangere per averci provato. La voglia di avere sogni è una qualità da proteggere e chi ce l'ha se la dovrebbe godere. Certo è un bene non farsi travolgere, ogni tanto è necessario che ci sia di fianco a noi qualcuno che ci aiuti a tenere i piedi per terra, ma nessuno ha bisogno di una zavorra. Per fallire c'è sempre tempo, ma per sognare non vale la pena aspettare la notte. Questo è Beirut e trovate, come tutti i brani che mandiamo in onda tutti i giorni, trovate il titolo della canzone, dell'autore, di chi la canta sul sito di Radio 24. In realtà trovate di più, trovate il link per andare a sentirlo direttamente su YouTube. Grazie a Margherita e a Valeria di là del web. 349-238-6666. Alessandro mi scrive: Dopo 12 anni come direttore commerciale, 14 mensilità, carta di credito, telefono, auto societaria, ho mollato tutto per fare una mia società di consulenza. Tutti mi hanno dato del pazzo, ma l'energia che era dentro di me, l'energia che dentro di me sprigionava desiderio di cambiamento, ha avuto la meglio. Oggi, dopo un anno, la mia decisione è stata vincente. E ancora Michele, che ha una gelateria, credo. Quando ho aperto il terzo negozio mi sono sentito male. Che fatica, ma che soddisfazione. E poi c'è un messaggio invece di Renata da Vicenza, che è direttamente per Stefano, che dice: Stefano, ti auguro di tenere il tuo poggio al pruno. Se lo tieni e ce la fai, scrivi sulla porta: su questo podere si può tremare ma non cadere. In bocca al lupo. Pronto, Stefano? Sì. Ciao, come stai? Ciao. E mi sono un po' emozionato. Lo immagino perché la storia è emozionante, ma soprattutto perché, guarda, da questi microfoni e da questa radio si parla, soprattutto in questo periodo, no? Anche con l'operazione Disperati Mai, si parla moltissimo della situazione di diversi imprenditori che si trovano in situazioni simili alle tue. Si parla forse un po' di meno di come la vivono questa situazione, questi imprenditori, o forse se ne parla quando fanno purtroppo dei gesti estremi. E quindi sono contento di avere te in realtà in questo spazio, Stefano, alle 4 del pomeriggio, dove si raccontano storie per raccontare la tua. Partiamo dall'inizio, Stefano. Partiamo dal 97. Tu sei un agente immobiliare, lo sei ancora, giusto? Un agente immobiliare. Giri per la Toscana e a un certo punto trovi questo luogo, che è un luogo magnifico. Sì, è un luogo unico. Me lo descrivi. Tu ti trovi lì in questo momento? Sei a Poggio al Pruno? Sì, sono lì. Mi dici cosa vedi intorno a te, Stefano? Vedo il cielo, il mare e... scusa. No, non ti preoccupare, insomma, lo posso immaginare e capisco che tu sia molto emozionato. Io, tra l'altro, sono andato sul sito del tuo di Poggio al Pruno, che è, ora lo dicono, anche linkato sul profilo Facebook, che è poggioalpruno.it, ed è veramente un posto magnifico. Di fatto è una villa, è una residenza con piscina, con un parco intorno. Ed è, mi dicevi prima al telefono, non è un bed and breakfast, cioè tu non affitti le stanze singolarmente, giusto, Stefano? No, affitto la villa per intero. L'affitti per intero a gruppi, famiglie? A gruppi di 12 persone, perché ho 6 camere. Volendo potrebbero essere anche 7, ma comunque ne uso 6 perché... insomma, è un impegno per me che faccio due lavori, quindi è una grande... Per una settimana l'affitto a loro, io arrivano il sabato e vanno via il sabato successivo. Quindi è una grande, bellissima casa che si affitta completamente. Sì. Mi dicevi anche sostanzialmente non a italiani, giusto? No, sono stranieri. Cioè quest'estate hai affittato più o meno a... quali? Praticamente ho affittato 16 settimane, erano tutti stranieri, olandesi, svizzeri, tedeschi, solo stranieri. E la questione dice, beh, però se riesci a affittare in teoria i soldi entrano, però tu mi spiegavi anche che il 70% di questo va nel mutuo che tu hai acceso. Esatto, io ho acceso un mutuo che poi, come ti avevo scritto, i costi sono molto lievitati. E quindi praticamente ho dovuto poi chiedere un'integrazione e mi sono indebitato, però se acquistasse una persona che ha la possibilità di estinguere il mutuo o di ridurlo, rimane un ottimo stipendio, perché te considera 16 settimane, sono circa 60, oltre 60.000 euro di ricavi. Perché allora la questione adesso è, Stefano, che tu la vuoi vendere a malincuore, ma la vuoi vendere. Tra l'altro, scusami, prima di parlare di questo, la cosa che mi ha colpito di quello che tu dici, che comunque tu non senti di aver sbagliato, cioè è una cosa che probabilmente se non l'avessi fatta avresti dei sensi di colpa o penseresti di volerla fare. Perché io le sfide nella mia vita l'ho sempre accettata, e questa più che, diciamo, la storia di una costruzione qualunque, è la storia di una sfida, perché costruire in quel posto lì mi davano del matto, capito? Ma io la sfida l'ho vinta, perché in effetti io ho lavorato e purtroppo io ho incappato in una crisi epocale. Quindi, esatto, quindi il problema non è che tu hai fatto male i calcoli, o meglio. I calcoli si sono spostati, si sono mossi durante questi anni. Quindi, Stefano, dicevamo, in sostanza noi di solito alle 16.30 non vendiamo immobili per radio, però la realtà è che tu hai creato questo posto che è magnifico e vi invito ad andare a vederlo poggialpruno.it e adesso la vuoi vendere, giusto? Quindi stai cercando. Ma chi è che può comprare però un posto come quello, guarda, Stefano? Diciamo, può acquistarlo una persona che ci vuol fare una residenza, quindi ci vuol venire in vacanza con gli amici, può acquistarlo uno che vuol fare un investimento e che vuole continuare il mio lavoro. Ok, quindi in sostanza appunto o un privato che ha molti soldi, direi, ci va a vivere o ci va a fare le vacanze, oppure qualcuno che vuole continuare la tua attività, che di fatto è già avviata, giusto? Perché c'è un sito, avviata, perché ci sono cose che proseguono. Senti, quindi l'idea è quella di, insomma, nella speranza tra l'altro che il mercato immobiliare riparta, perché tu fai l'agente immobiliare anche, sì, giusto? Sì. E mi dicevi che da gennaio praticamente non si è mosso niente. Nulla, niente, non faccio più nulla. Praticamente se continuo così devo chiudere l'agenzia. Ok, quindi sperando che questo non succeda e sperando che ci sia qualcuno all'ascolto in questo momento alle 16:30 di un giovedì 20 settembre 2012 che ha voglia di guardare il posto e magari di contattarti, tanto lì ci sono tutti i tuoi estremi, giusto, eventualmente sì, sul tuo sito, sì, che appoggia. Poi, tra l'altro, Matteo, la sto anche vendendo a un prezzo di realizzo, perché io veramente voglio vendere. Quindi, immagino che quindi... Chi compra fa un ottimo affare, perché la Toscana è un brand che tiene sempre tantissimo. Lo immagino, so che è così. Stefano, io purtroppo adesso ti devo lasciare, ti faccio un sacco di in bocca al lupo e io spero davvero di risentirti, magari prima della fine del programma, con qualcosa di, insomma, di... magari concreto. Non di concreto, e magari con un tono di voce un pochettino più sollevato di quello che hai comprensibilmente adesso. In bocca al lupo, Stefano. Grazie a te, ciao, buona giornata, ciao, grazie. Comprensibilmente non è un autoritratto, non è una foto di sé quella che ci ha mandato Stefano. Immaginate da questa foto una collina completamente verde, completamente ricoperta di alberi, e in cima a questa collina, su questo poggetto, una villa color sabbia con i tetti in cotto, tre corpi di villa, una piscina e un prato verde intorno. E in fondo, proprio sullo sfondo, oltre le colline della Toscana, il mare. Sogno. L'attività psichica che si svolge durante il sonno. Figurativo, speranza o desiderio vano e inconsistente. Di sogno, meraviglioso, fantastico. Etimo, dal latino somnium, data secolo XIII. Dobbiamo ricordarci, Paolino, di dire a Carlo Genta, quando esce dallo studio, di abbassare un po' l'aria condizionata. Ci sono, ti credo, 12 gradi qua dentro. Caro Matteo Caccia, mettiti il maglione, io l'aria condizionata la tengo alta, quindi sono fatti tuoi, ma andiamo all'euro serata di ieri sera. Niente, si è creata questa tensione tra me e Carlo Genta. Io il maglione me lo sono messo perché continua ad esserci 12 gradi nello studio, ma giuro che prima o poi glielo rompo quel robolo dell'aria condizionata, così anche lui sta ad una temperatura civile. 349-238-6666, si parla, come avete sentito dal dizionario di oggi, dalla voce di Alessandra, si parla di sogni realizzati. Il sogno di Stefano si è leggermente incagliato in questo momento e speriamo che trovi uno sbocco. Ho 54 anni, scrive Teresa, dopo anni di lavoro di dipendente, da una settimana ho aperto con una collega un centro di psicomotricità per i bambini. Fateci gli auguri. Auguri. 800240024, andiamo in provincia di Chieti, dove c'è Antonella che l'ha realizzato un sogno. Pronto, Antonella? Ciao. Antonella. Antonella, scusami, ricomincia perché ti abbiamo perso. Pronto? Allora, la provincia è Rieti, con la R. Rieti, ok. Ecco. Benissimo, scusami, ho letto male. No, però così non ce la facciamo. No, guarda, Antonella, proviamo a richiamarti. Stai lì, andiamo a Cesena da Pietro. Pronto, Pietro? Ciao, Matteo. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno, come stai? Benino. Qual era il tuo sogno e a che punto sei? Il mio sogno è stato realizzato l'anno scorso. Finalmente ho aperto un ambulatorio tutto mio, un ambulatorio infermieristico. Dopo aver lavorato come dipendente, mi sono licenziato 10 anni fa, uh-huh. Ho iniziato la libera professione e adesso... Ma tu sei medico o infermiere, Pietro? Perdonami. infermiere e idrocolloterapeuta. E un ambulatorio infermieristico che cosa fa rispetto a un ambulatorio d'altro tipo? Nell'ambulatorio infermieristico io mi occupo di prestazioni infermieristiche e faccio l'idrocolloterapia. Che? Okay. È una tecnica di lavaggio dell'intestino. Ok, senti, invece hai da un punto di vista dei mutui, cose da pagare, debiti? A che punto sei? Ma io telefono perché sono stato un fortunato, nel senso che quando ho deciso di mettermi per conto mio, l'unica cosa che ho pagato subito è stata la realizzazione del sito internet. Ah. Per il resto mi sono venuti tutti incontro, da chi mi ha affittato l'ambulatorio a chi mi ha venduto le attrezzature, dilazionandomi tutto. Ok, Pietro, grazie mille per il tuo racconto, in bocca al lupo ancora, a presto. Prego, ciao. Ciao, grazie. Andiamo, Alessandro, provincia di Macerata, che faceva il farmacista e poi adesso non ho capito cosa hai aperto, Alessandro. Ho un allevamento di maiali a semibrado limitato, però è impostato sul comportamento degli animali, cioè l'allevamento è fatto in modo tale da assecondare il comportamento degli animali senza alcuna violenza, ecco. Cioè, quindi loro sono in sostanza liberi? Sì, sono liberi però in un ambiente confinato, relativamente confinato, che sono 7 ettari e mezzo, diciamo. E com'è che si chiama, come l'hai chiamato, scusami, tecnicamente? Io, semibrado. Semibrado. Perché è termine tecnico, però è limitato perché il brado sarebbe che l'animale sta libero, il semibrado quindi si alimenta con il cibo che trova, il semibrado sarebbe l'integrazione viene data all'uomo, però occorrerebbero tipo 40 ettari per 10 animali. Senti, è impossibile, non esiste più da 800 anni. Ho capito. Alessandro, e poi ti saluto che ho un sacco di altre telefonate, sì. Il prezzo che stai pagando per questo sogno è che vivi in una roulotte, però mi scrivo. Sì, vivo in una roulotte, sto cause legali che sto vincendo, però giustizia la grossa, va bene, fra 10 anni e vado avanti. Hanno ammazzato gli animali, minacce, di tutto subito. Però andiamo avanti, l'importante è andare avanti, disperato ma ancora in piedi. In bocca al lupo allora, Alessandro, grazie mille. In bocca al lupo a tutti, grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. Andiamo a Vicenza, facciamo proprio cose completamente diverse. Lucia, pronto Lucia? Ciao. Ciao, ciao. Come stai? Va bene, emozionata. Dimmi che cosa hai realizzato. Io ho realizzato un asilo nido per bambini da 0-3 anni. Come funziona? È privato ma parificato? No, qui non esistono gli asili parificati. È un asilo privato, è riconosciuto però dalla Regione Veneto, quindi noi siamo accreditati, quindi abbiamo degli standard, rispettiamo degli standard molto, molto elevati. Ok, hai ancora spese, mutui, debiti? Tanti, tantissimi. Ok, Lucia, allora tantissimi. In bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Milano. Giovanni, pronto Giovanni? Sì, buonasera, ciao Matteo. Ciao, senti, hai aperto un centro di riabilitazione del linguaggio. Sì, in particolare specializzato in balbuzie, perché io fin da quando ero piccolo balbettavo in una maniera incredibile. Fin da 16 anni avevo iniziato a frequentare un po' di corsi, un po' riuscivo a parlare bene, un po' male, fino a quando veramente mi sono stancato. E quindi mi trovavo contemporaneamente in Inghilterra per il mio lavoro in ambito finanziario, sì. E mi sono detto, ma ci sarà un modo per parlare bene sempre? Non l'ho trovato nemmeno in Inghilterra, allora mi sono messo proprio un po' a caso a collaborare con un po' di medici, un po' di fisioterapisti, sì. e siamo riusciti a trovare una tecnica che prima di tutto ha permesso a me di parlare bene, okay. E quindi mi sono detto perché non lanciarmi anche, in questa attività anche agli altri. Ok Giovanni, io purtroppo ti devo salutare che devo chiudere, ma grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Ciao Giovanni, grazie. Grazie a Giovanni, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. Grazie soprattutto in bocca al lupo a Stefano. Oggi era la sua storia e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Carlo Masoero, lavoro per una compagnia di assicurazione e vivo a Piacenza. La storia di domani è la mia, parla di mare, del mare che incontriamo da piccoli, che frequentiamo da ragazzi e poi rimpiangiamo da uomini, perché resta dentro di noi tutta la vita. Questa è la mia storia e io sono qui.